24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Raffaella Calandra, ben trovati a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. In primo piano l'Eurozona che entra in recessione, con gli scenari tracciati dal presidente della BCE, gli effetti sulle borse, la preoccupazione per la crisi in Medio Oriente e poi le novità sul mercato dell'energia. In apertura dunque la crisi dell'Eurozona è entrata ufficialmente in recessione. Anche nel terzo trimestre, infatti, riferisce Eurostat, il PIL è stato negativo meno 0,1% e in recessione entra anche l'Italia, mentre frena più delle attese la Germania. Il vecchio continente affronta con la crudezza dei dati la propria incapacità a reagire alla crisi. La rilevazione del prodotto interno lordo è chiara. Per l'Italia il calo è dello 0,2% congiunturale e del 2,4% annuale. Il dato acquisito per l'anno in corso, se quindi l'ultimo trimestre non portasse con sé sorprese, sarebbe un meno 2% tondo tondo. Si tratta del quinto trimestre in rosso, però tenendo conto della valle di lacrime in cui siamo, è il rosso meno marcato rispetto ai trimestri precedenti. Dunque la caduta è sempre tale, ma meno rovinosa. Anche la Spagna ci fa compagnia, ancora in recessione nel terzo trimestre, anche qui il quinto consecutivo. Che l'eurozona sia debole viene confermato anche dal dato complessivo, un meno 0,1% che porta ufficialmente l'Europa a 17 in recessione. Crescita piatta per il Belgio, negativa per Austria e Olanda. Questa volta non basta la Germania, che mostra stanchezza. Il PIL tedesco cresce, ma a un ritmo più lento. I numeri possono cambiare da mese a mese, vero, ma anche dall'indagine periodica che la BCE conduce tra gli economisti di istituzioni private non filtra ottimismo. Peggiorate le stime su crescita e disoccupazione. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I dati dunque non sono buoni, ma per il presidente della BCE Mario Draghi l'Europa emergerà rinvigorita da questa crisi. Scenario tracciato nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico della Bocconi a Milano, alla presenza anche del premier Monti. Un bilancio sulla situazione economica dell'anno che sta per terminare e sulla crisi in Europa. Il presidente della BCE Mario Draghi fa il punto all'inaugurazione dell'anno accademico 2012-2013 della Bocconi a Milano, indicando una strada per la risalita nell'Eurozona. L'attività economica continua a indebolirsi e gli spread continuano a crescere. Il che pone l'accento sulla forma che deve avere il consolidamento fiscale ideale, cioè quello che riduce il deficit e il debito, con le minori conseguenze negative sul prodotto di un paese. L'evidenza prevalente indica che esso deve essere centrato su riduzioni di spesa corrente e non su aumenti di tasse. E secondo Draghi, anche per chi non condivide questa impostazione, è essenziale che il processo sia credibile, irreversibile, strutturale. Perciò il numero uno dell'Eurotower esorta i governi nazionali, a cui la BCE non si può sostituire perché recuperino la credibilità. Dall'altro lato però difende con forza l'Europa e la moneta unica, ormai irreversibile, spiegando come la stabilità finanziaria dell'euro è nell'interesse di tutti, in primis dei paesi creditori. L'obiettivo finale è l'unione politica, un'Europa stabile e integrata con un destino comune. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quanto all'Italia, per il ministro dell'economia Vittorio Grilli, la medicina sta funzionando, lo ha detto a Londra, dove ha tenuto incontri bilaterali con l'omologo George Osborne. E il quadro della crisi si riflette sulla giornata in borsa. Il fiscal cliff americano, il confronto tra fondo monetario e UE sul salvataggio della Grecia e i dati inferiori alle attese provenienti dagli Stati Uniti, dove l'uragano Sandy pesa sui sussidi di disoccupazione e sull'indice della Fed di Filadelfia. Un mix di fattori ieri ha mandato nuovamente in rosso le borse europee, con Parigi, Francoforte e Londra che hanno perso più dello 0,5% e Milano che ha visto il FTSE MIB lasciare sul terreno mezzo punto percentuale. Le peggiori sono Saipem e A2A che cedono oltre il 4%, Autogrill meno 3% e Mediaset meno 2,7% scontano l'uscita dal paniere del Morgan Stanley Global europeo e Campari meno 4,2% il mancato ingresso nel paniere. Per contro in cima al listino rimbalza Fiat più 1,1% anche se la migliore è Impregilo più 1,7% sulle indicazioni di un piano focalizzato sulla massimizzazione del ritorno sul capitale investito. Mer Tecnimont crolla del 12,2% dopo l'annuncio di un aumento di capitale di cui non è stato precisato l'ammontare. Circondina da Radio Corp per Radio 24 e Sole 24 Ore. La crisi è stato uno dei temi anche dell'incontro a Berlino tra la cancelliera tedesca e il premier francese Erol. I rapporti di amicizia franco-tedeschi sono molto importanti, ha detto Angela Merkel, sottolineando la necessità che soprattutto in questa fase decisiva per l'Europa la collaborazione l'inflazione, ha aggiunto, vada intensificata. E quanto alla Grecia, per la Merkel serve velocemente un rapporto della Troika sulla situazione. L'austerità sta distruggendo l'Europa, ne è convinto il professor Giulio Sapelli, ospite di Focus Economia. Problema vero che la Germania ha fatto quel boom perché ha fatto una colossale mole di investimenti. È l'investimento che fa il lavoro, non la liberalizzazione come pensava anche Schröder. La Germania era una malata, ma era meno malata di altri. Capitali sono andati lì, ma non capitali finanziari, capitali industriali. Guardi le riforme nella fabbricazione che ha fatto la BMW, che ha fatto la Volkswagen, quali sono gli investimenti? Ha aumentato la produttività del lavoro. E mi scusi Sapelli, quindi dopo l'austerity c'è ancora austerity? Ma se dopo l'austerity c'è austerity, c'è la depressione, il crollo, la disgregazione sociale. L'unica cosa è l'immissione di liquidità, che non è assistenzialismo, è politica per un investimento sociale. Così aumentiamo i debiti. Ma chi se ne trafotte? Ripeto sempre, il Giappone c'ha il 280% di debito. La Spagna era a posto, è andata in default. Ma non mi dirà mica che gli investitori non investono in Italia perché c'è il debito pubblico. Torniamo a Bruxelles e torniamo a parlare di bilancio, perché arriva lo stop a 2,65 milioni di euro proposti dalla Commissione europea per venire in aiuto di 502 lavoratori del settore motociclistico licenziati dopo il terremoto in Emilia. La ragione dello stallo è il fallimento dei negoziati tra Commissione, Consiglio e Parlamento sull'integrazione del bilancio. Uno stop evitato invece per i 670 milioni di aiuti destinati ai terremotati. Basta violenze. Le Nazioni Unite chiedono lo stop ai raid che hanno riportato in piena crisi il Medio Oriente. Per la prima volta dal 91, infatti, un razzo ha anche raggiunto Tel Aviv, finendo però in mare. Una ferma condanna alle violenze e soprattutto ai missili partiti da Gaza arriva dal ministro degli esteri britannico William Hague, secondo cui Hamas ha la responsabilità principale per la crisi di oggi. Ancora razzi su Israele, ma questa volta alle porte di Tel Aviv. Gli ordigni di Gaza non erano mai arrivati così lontano. Le sirene hanno suonato a Rishon LeZion e Holon, vicine alla periferia meridionale della città. Pochi istanti dopo sono caduti due missili lanciati da Gaza. La Jihad islamica rivendica di aver colpito Tel Aviv. Non è esattamente così, mancano ancora alcuni chilometri alla più grande città di Israele, ma quanto basta per rivedere alcuni assunti strategici della difesa israeliana. Fra le decine di obiettivi centrati, l'aviazione sosteneva di aver distrutto anche gli arsenali nei quali erano nascoste queste armi così potenti. Forse non li hanno centrati tutti. Razzi o missili di questa gittata non vengono prodotti dentro Gaza, probabilmente sono arrivati dall'Iran attraverso la milizia sciita libanese di Hezbollah. Nella seconda notte della nuova battaglia su Gaza c'è dunque solo buio e incertezza. Non si sa fino a dove si vogliano spingere Hamas e le altre milizie di ispirazione islamica, né se Israele alla fine lancerà anche un'offensiva terrestre dentro la striscia. L'Egitto con Hamas e gli Stati Uniti con Israele stanno cercando la strada di nuovo cessate il fuoco, al momento altamente improbabile. Ugo Tramballi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un mercato interno europeo dell'energia efficiente, interconnesso e trasparente, in grado di offrire ai cittadini e alle imprese forniture di energia al minor costo possibile. La Commissione esorta gli Stati membri ad accelerare i loro sforzi per recepire l'attuale normativa, perché quando si tratta di gas e di energia elettrica, ha commentato Günther Oettinger, commissario per l'energia, a cittadini e imprese interessano sicurezza e prezzi sostenibili. Potremmo raggiungere questo risultato, commenta, solo con un mercato europeo dell'energia ben funzionante. Gigi Donelli ne ha parlato con Fabrizio Barbaso, vice direttore della Direzione Energia. Alla Commissione europea ci siamo molto attivati per raggiungere questi obiettivi. Obiettivi in termini di sicurezza di approvvigionamento attraverso una strategia di diversificazione delle fonti di energia, dei paesi di provenienza dell'energia e dei paesi di transito. Tutto questo è estremamente utile, ma ci vuole un mercato interno integrato che permetta, attraverso l'uso di infrastrutture comuni, ai paesi di far passare questa energia e farla arrivare nei paesi che ne hanno bisogno in un certo momento, in certe condizioni. Attraverso quindi delle regole comuni, attraverso delle infrastrutture comuni, noi aumentiamo l'efficacia del sistema. E aumentando l'efficacia creiamo una pressione competitiva che favorisce poi dei prezzi abbordabili per il consumatore finale. Ecco, se diciamo la squadra è un elemento di forza, quindi l'Unione Europea sicuramente lo è, d'altra parte voi avete registrato come i consumatori in realtà non sappiano ancora sfruttare quello che c'è quando si tratta di utilizzare al meglio le offerte di servizio. Il consumatore in generale non è ancora sufficientemente informato delle offerte di servizi che risultano da questa nuova concorrenza che si è creata sul mercato dell'energia. E ora parliamo di cultura, quella dell'Italia all'immagine di un paese mediocre che vive sulle spalle di un grande passato. Una diagnosi triste ma suffragata anche da Indice 24, l'indicatore elaborato da Pierluigi Sacco, docente di economia della cultura allo IULM di Milano e presentato nel corso degli Stati Generali della Cultura a Roma. All'evento ha partecipato anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che nel suo discorso ha parlato pure di regioni e dell'utilizzo dei fondi europei. Abbiamo bisogno in questo senso di una nuova qualificazione delle istituzioni pubbliche, per esempio le regioni. Sì signore, non getto l'anatema sulle regioni, ci mancherebbe altro, però l'esperienza dei fondi europei per il Mezzogiorno è un'esperienza di cui dobbiamo sentire tutto il peso. Stavo per dire vergogna, non voglio esagerare, ma noi non abbiamo utilizzato risorse preziose o le abbiamo utilizzate male. 24 ore in Europa termina qui. Un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.